in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani. Inizia un po', inauguriamo questa, per me quasi una maratona di rassegne stampe. Ci sentiremo anche domani, poi settimana prossima c'è ancora Alessandro, è l'ultima settimana prima delle ferie di 24 mattino, e poi ci sentiremo alla mattina per la rassegna stampa dei giornali italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che oggi ha il titolo principale dedicato a un forum che c'è stato ieri qui nella redazione di Via Monterosa a Milano con il presidente e l'amministratore delegato, scusate, dell'ENI, Claudio Descalzi. Naturalmente il tema è quello dell'energia, e in particolare, perché se ne parla in tutti i settori, della sostenibilità. E da qui il titolo: l'ENI alla svolta sostenibile, gas, rinnovabili e chimica verde, così rispondiamo alla crisi del greggio. In prima pagina anche la notizia che l'amministratore delegato, un altro amministratore delegato importante, quello di Telecom Italia, Flavio Cattaneo, probabilmente le indiscrezioni giravano da circa una decina di giorni, se ne andrà. Ogni azienda quotata ha un comitato nomine che si riunisce per decidere chi se ne va e chi arriva, e lunedì c'è questo comitato nomine e anche un consiglio di amministrazione per approvare un accordo che, secondo quello che si dice in ambiente finanziari, è già fatto, manca soltanto la definizione della buona uscita, che pensate potrebbe arrivare a 30 milioni di euro. La prima pagina del Corriere della Sera: migranti e scontro con l'Est, il riferimento naturalmente alla notizia che avete sentito in tutti i GR, delle dichiarazioni del ministro degli esteri austriaco e anche del premier ungherese, che ha addirittura chiesto che l'Italia chiuda i porti, una richiesta alla quale il premier Gentiloni ha risposto con molta durezza, dicendo soprattutto che l'Italia non accetta lezioni da altri paesi europei sulla gestione dell'immigrazione. Il Corriere della Sera è l'unico che mette in prima pagina quello che sta succedendo in Israele, e vi confesso che credevo che oggi sarebbe stata, a volte faccio questo gioco con me stessa, quale sarà domani l'apertura di tutti i giornali, non guardo apposta le anticipazioni delle varie rassegne stampe sui giornali, sulle televisioni, pensavo che questa sarebbe stata l'apertura di molti giornali, invece no. Però il Corriere della Sera ha la fotonotizia dedicata a questo, perché c'è questo rigurgito di violenza in Israele, e soprattutto ci sono stati scontri a Gerusalemme, la capitale del paese, e in Cisgiordania, con 6 morti, 3 palestinesi e 3 coloni, quindi 3 israeliani. Anche questi palestinesi erano di nazionalità israeliana, però intendo 3 coloni, quindi per persone di religione ebraica, 400 feriti. Questo è il motivo per il quale pensavo che appunto ci sarebbe stato maggiore enfasi a questa notizia, e il Corriere lo scrive chiaramente: paura di una terza intifada, cioè una rivolta, ce ne sono state già 2, che coinvolge e che ha numeri molto tragicamente molto più alti di questi, che per l'appunto comunque in un giorno solo 6 morti non sono certo pochi. La Repubblica oggi, un'altra cosa invece interessante che alla fine si può notare delle aperture dei giornali di oggi, è che dico sempre che la stampa mi stupisce perché spesso ha delle aperture, soprattutto nel weekend, sganciate dai fatti di cronaca, come se volesse concentrarsi, come credo la carta debba fare, non tanto sulla cronaca che sentiamo nei GR, alla televisione e soprattutto su internet, ma su approfondimenti o notizie in esclusiva. Oggi lo fanno in tanti, perché la Repubblica per esempio apre su una intervista in esclusiva che ha al procuratore di Roma, Pignatone, che commenta, è un'intervista di 2 pagine, il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone commenta la prima sentenza della cosiddetto, il grande processo che veniva definito Mafia Capitale. Ora bisognerà trovare un altro modo, o se non altro smetterla di chiamarlo processo Mafia Capitale, perché sapete che sono state anche date delle condanne molto dure, ma non per associazione mafiosa. Pignatone: ho perso, ma resto convinto che sia vera mafia. In prima pagina, come fotonotizia, invece, quello che è successo a Kos, un'isola greca, meta di tantissimi vacanzieri, c'è stato un terremoto, come spesso accade quando succede in paesi vicino al mare, in realtà all'origine c'è un maremoto che poi è diventato, o meglio, le due cose sono successe insieme, quindi maremoto e terremoto, sono state colpite sia la Grecia che la Turchia, molta paura naturalmente, però rispetto all'intensità delle scosse, in realtà bisogna rallegrarsi di questo bilancio che pure conta per ora due morti e centinaia di feriti. La Stampa, anche in questo caso apertura completamente sganciata dalla cronaca, riguarda un'inchiesta che va avanti e che è quella sui fatti di Piazza San Carlo, dove ricorderete la notte della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, ci furono centinaia di feriti e un morto, 1526 feriti, questo è il bilancio finale, perché non furono seguite delle misure di sicurezza adeguate. Anche se poi col senno del poi è naturalmente difficile capire se a fronte di quel di qualsivoglia misura di sicurezza non sarebbe successo niente. In ogni caso trovate poi questa inchiesta pagina 2 e 3, mentre anche in questo caso la fotonotizia è dedicata allo tsunami, così viene definito, sull'isola dei turisti. È un sisma di magnitudo 6,7 nei luoghi delle vacanze tra Grecia e Turchia. Anche il Messaggero titola su un'intervista, in questo caso è a Raffaele Cantone, che è il numero uno dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il virgolettato scelto dal Messaggero per questa intervista, che trovate a pagina 2, anche qui un'intervista molto lunga: Roma bloccata, deve ripartire. Basta alibi, la macchina del Campidoglio non funziona, quindi un duro giudizio sulla giunta Raggi a più di un anno dall'insediamento. E anche in questo caso, quindi è il terzo giornale dopo La Stampa e il Corriere, La Stampa e La Repubblica, che ha la fotonotizia dedicata alle devastazioni. In questo caso la foto non è di Kos ma di Bodrum, sulla costa della Turchia, dove qui il bilancio sarebbe appunto fermo a due turisti morti e 200 feriti, più naturalmente tutti i danni, anche se non sono stati, come dicevo, forse siamo un po' in questo sono condizionata da quello che succede in Italia, però rispetto quando scosse di questo genere in Italia fanno molti più danni, lì evidentemente o per minor densità o forse perché qualche criterio antisismico in più era stato rispettato, i danni alle strutture sono inferiori forse a quanto ci si potesse aspettare. Il Fatto Quotidiano ha un titolo abbastanza orrendo e devo dirvi che sono tentata di per queste rassegne stampa di scegliere ogni giorno il titolo più brutto, più urticante, e però anche l'articolo invece più divertente. Quello l'ho trovato, e il titolo più urticante, in realtà questa idea di sceglierlo mi è venuta adesso, potrebbe essere questo, che è quello del Fatto Quotidiano, testuale: Maxi Marchetta Rai a Renzi, presente al suo libro in diretta. Rai News dedica mezz'ora all'intervista di Bella al supermercato. E vabbè, Maxi Marchetta. Un'intervista anche in questo caso sul grande processo per tutti i fatti di corruzione avvenuti a Roma, che appunto non possiamo più chiamare mafia capitale secondo la giustizia di primo grado, secondo la sentenza di primo grado. E però Rosi Bindi, che è presidente della commissione antimafia, dice in questa intervista: a Roma pratto tra i clan, fare ricorso su mafia capitale. Il Giornale, anche in questo caso una lunga intervista, qui pagine 2 e 3, a Silvio Berlusconi, il grande ritorno. In realtà l'intervista è poi parzialmente, diciamo, una trascrizione di quello che dell'intervista andata in onda a In Onda, e però il Giornale, che ricordiamo è di proprietà della famiglia Berlusconi, rimette ordine in quello che a volte, quando si parla, sfugge un po', e ribadisce tutto quello che ha detto il Cavaliere in questa intervista. Tra le cose, il virgolettato è: nessun traditore tornerà in Forza Italia. Il riferimento naturalmente è alla quella che Alessandro ha definito più volte, poi in molti lo hanno seguito, la transumanza all'interno del Parlamento, perché sapete che molti parlamentari stanno cambiando casacca e addirittura due hanno lasciato il governo, erano due sottosegretari, perché è un po' una mossa contro Angelino Alfano, al partito del quale appartenevano, e ora vedremo in quale partito andranno. Anche perché poi c'è il cosiddetto gruppo misto, in cui se uno forse non viene accolto, come annuncia Berlusconi, appunto parlando di coloro che se ne erano andati da Forza Italia e ai quali lui potrebbe sbarrare il ritorno, poi non sanno dove andare e vanno in questo gruppo misto. Il manifesto titola invece Petrol Killer, naturalmente il gioco di parole rispetto a petrol chimico, e il riferimento è al sequestro di alcuni impianti degli impianti petrolchimici Essob e Isab di Augusta in Sicilia, per questioni di salute soprattutto, quindi di tutela delle persone che ci lavorano, di quelle che vivono intorno e anche dell'ambiente. Il Libero ha un lungo articolo di Vittorio Feltri, che di Libero è il direttore, intitolato Non salvate i naufraghi. Il virgolettato in realtà è riferito direttamente a quello che ha annunciato ieri, lo vedevamo prima sugli altri giornali, il premier della Turchia Orban, che ha annunciato che, oltre a essere una richiesta di Orban, sarà una richiesta che verrà anche messa nero su bianco da Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, e che si sono anche offerte di mandare le loro navi nel Mediterraneo per bloccare l'invasione che il nostro governo non contrasta. E scrive Libero, con naturalmente una punta di ironia, Gentiloni fa l'offeso e riporta questa reazione, questa prima reazione di Gentiloni, che è niente minacce, nessuno ci deve minacciare, come appunto di mandare le navi per fare quello che, secondo i rappresentanti di Repubblica Ceca, Ungheria, ecco, come dicevamo, noi italiani non riusciamo a fare. La Verità invece riprende le ultime dichiarazioni di Laura Boldrini, che è una dichiaratrice di professione, potremmo dire così. Lei naturalmente è il presidente della Camera, ma soprattutto appunto lei commenta su tutto, è una tuttologa, e ieri per esempio ogni tanto le scappano anche delle frasi di quelle che poi vengono stigmatizzate e allora corrette da chi le ha pronunciate, dicendo non mi avete capito. La Verità riassume con la Boldrini due punti: italiani ignoranti, la commissione sull'odio ha concluso i suoi lavori, il documento finale ci insulta e detta la linea, approvare lo ius soli, più lezioni gender a scuola, multe a chi non si adegua e un organo per controllare l'informazione. Questa commissione per l'odio, appunto, fortemente voluta dal presidente della Camera italiano. Approfitto per ringraziare tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-66 o sms o whatsapp, e in particolare all'ascoltatore che dice: perché continuate a dire che l'Italia è il secondo paese industriale d'Europa, quando invece, calcolando la sola componente industriale del PIL, risulta quarto, dietro anche Francia e Gran Bretagna da qualche anno. Grazie, cordiali saluti. Il surplus indica chi è più bravo, non le piace, la Germania è più brava e basta. E l'antica questione del surplus commerciale della Germania. Questo dato personalmente mi impegno veramente a verificarlo, ma l'ultima volta che avevo guardato le statistiche era vero, cioè dal punto di vista della manifattura l'Italia è seconda soltanto alla Germania, e anche per quanto riguarda l'export. L'Avvenire, famiglie al governo, due punti, fondi e scelte vere, il riferimento è all'appello del Forum delle Famiglie, che ha scritto una lettera al governo spiegando quali potrebbero essere le misure più efficaci efficaci, accanto magari a quelle che già stanno prendendo forma, come il bonus per gli asili nidi o altre forme di aiuto alle famiglie, soprattutto quelle che hanno molti figli. In prima pagina anche l'Avvenire, come il Manifesto, mette la notizia del petrolchimico di Siracusa, che ad alcuni impianti del quale sono stati messi i sigilli. Ci fermiamo un attimo però per una pausa sul traffico. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Per la seconda parte della nostra rassegna stampa vi segnalo in edicola oggi i due settimanali del Corriere della Sera, Io Donna e di Repubblica. Su Io Donna c'è in copertina Carla Bruni, ex premier dame ma tuttora moglie di Sarkozy, che non è più presidente francese. Lunga intervista, mi sembra che non da quello che viene c'è scritto in copertina, sono cose che Carla Bruni ha già detto molto in passato. Dice: gli uomini tutti bamboloni, bambinoni, tranne il mio, così virile, appunto Sarkozy. Invece di Repubblica ha in copertina un primo piano di un architetto, Amanda Levete, architetto del momento, che spiega appunto il ruolo che l'architettura può avere nella società. E sappiamo che per esempio in Italia si parla molto del ruolo che gli architetti possono avere lavorando insieme ai comuni per ridisegnare e migliorare le periferie, che tradizionalmente in Italia sono i luoghi del degrado. Non è così in tutti i paesi né in tutte le città. In Italia questo purtroppo è particolarmente vero. Torniamo andiamo nelle pagine interne dei giornali. Al Sabato, non ho mai occasione di segnalarlo, ma oggi naturalmente lo faccio volentieri, come alla Domenica c'è la pagina del Sole 24 Ore dedicata a sport e business, e oggi è dedicata al calcio. Naturalmente in questo momento i campionati sono fermi, però ci sono tutti i preparativi per le grandi coppe europee, per naturalmente il calcio mercato, e il titolo dell'approfondimento di Benedetta Giardina è: in Serie A il botteghino è ancora vuoto. Nella stagione 2016-2017 Premier League e Bundesliga hanno incassato più del doppio dell'Italia. In edicola, come ogni sabato, con il Sole 24 Ore plus 24, la copertina è dedicata alla crescita che stanno avendo gli indici di borsa. Sappiamo dei record di Wall Street, ma anche a Milano sta andando molto bene. Cosa spinge Piazza Affari? Indici di Milano in crescita a due cifre da inizio anno, sostenuti dai PIR, i piani di investimento e risparmio, che sapete sono una novità introdotta quest'anno e che stanno avendo molto successo tra i risparmiatori, ma c'è anche, e anche questo ha contribuito al rialzo di Milano, boom di matricole, cioè di aziende che si sono appena quotate. Il rischio naturalmente è quello delle cosiddette bolle o supervalutazioni. Dal Corriere della Sera, ma questa notizia la trovate anche su altri giornali e fa forse effetto perché questi sono i giorni in cui si ricorda il G8 del 2001, quattro giorni di cui ancora adesso in Italia e anche in Europa parliamo, perché ci furono scontri, ci fu l'episodio terribile della morte di Carlo Giuliani in Piazza Alimonda, ma soprattutto ci furono le torture, questo ha accertato la magistratura, nella caserma di Bolzaneto e alla scuola Diaz. E ieri è successo che Diego Urbisaglia, 39 anni, consigliere comunale del PD ad Ancona, ha scritto un post su Facebook dicendo: serviva una mira migliore. Poi si è scusato, ha anche detto che però tutto sommato lo pensiamo tutti e non ha alcuna intenzione di dimettersi. Io non commento, anche perché c'è un ascoltatore che mi dice che non devo, che devo risparmiarvi le mie opinioni. In realtà, insomma, questo è un po' il modo in cui io faccio la rassegna stampa, cioè non riesco solo a leggere i titoli, quello potrebbe farlo anche un computer, ma ogni tanto faccio capire o dico chiaramente come la penso. Sempre dal Corriere della Sera, ma trovate la notizia anche su altri giornali, la descrizione di questo progetto Hyperloop, che prevederebbe di un tunnel sotterraneo. È un progetto di Elon Musk, che è tra le altre cose l'inventore di Tesla, che collegherebbe New York, permetterebbe di collegare New York naturalmente con un treno, New York a Washington in 29 minuti. In questo momento, per esempio, con l'aereo ci si mette più o meno un'ora. Dalla Repubblica ci avviciniamo anche qui alle stelle cadenti, ai giorni delle stelle cadenti, e allora Matteo Marini ci rispiega che cosa sono in realtà queste stelle cadenti, le meteore nella notte, il più grande show dell'estate. Quest'anno le vedremo come picco di attività nella notte tra il 12 e il 13 agosto. E poi per chi sta per andare in vacanza o magari c'è già stato o conosce qualcuno che ha un cane o un gatto e ha questo problema delle ferie, Cristina Nadotti a pagina 35 della Repubblica ci racconta: cani e gatti non hanno bisogno di andare in ferie. Un approfondimento sul fatto che molte persone lasciamo perdere, non parliamone qui, per un giorno possiamo non parlarne visto che non ci sono fatti di cronaca di chi abbandona gli animali prima di andare in ferie, ma chi invece va in ferie e non ci pensa neppure ad abbandonarli. Cristina Nadotti ha interpellato alcuni veterinari e che hanno spiegato che a volte il viaggio è talmente stressante per i gatti e i cani o altri animali da compagnia che forse si possono trovare altre soluzioni che non sono così tremende per loro. Poi un articolo bellissimo di Alberto Manguel, che è stato negli ultimi anni della vita di Jorge Luis Borges, il suo segretario, potremmo dire, ma molto di più di un segretario. Jorge Luis Borges non vedeva più bene e Alberto Manguel gli stava accanto, leggeva per lui, gli faceva compagnia e non a caso ha poi preso il suo posto alla Biblioteca Nazionale di Buenos Aires e racconta il suo amore per i libri, ma anche questa eredità, se vogliamo, così pesante di Jorge Luis Borges. Trovate questo articolo alle pagine 40 e 41 della Repubblica. E Alberto Manguel, tra l'altro, è diventato a sua volta scrittore, però diciamo che la sua professione principale è appunto quella di bibliotecario, vive tra i libri, il sogno di tanti, credo. A proposito di libri, sulla Stampa c'è, come ogni sabato, Tutto Libri, che pensate è il numero 2059 di Tutto Libri, il supplemento appunto della Stampa dedicato alla letteratura. E come sempre ci sono molte interviste, molte novità. Questo è, sapete, luglio, insieme a il periodo natalizio è quello in cui si vendono più libri, perché si spera appunto che uno faccia grandi acquisti, grandi scorte prima di andare in vacanza. La vicenda del consigliere Diego Urbisaglia la trovate anche sul Messaggero a pagina 8, con più spazio, devo dire, rispetto ad altri giornali. Consigliere PD, due punti, Giuliani, sparare e mirare bene, il partito pronto a punirlo. Io questa pagina me la terrei e vediamo se poi verrà veramente punito, perché la questione è sempre la stessa, che ai politici si chiederebbe un po' più di misura nelle parole, un po' più di autocensura e poi anche di prendersi più responsabilità di quello che si è detto e non appunto semplicemente dire mi scuso, però era quello che volevo dire, era quello che pensano tutti, ma chi te lo dice che lo pensano tutti? Comunque, il supplemento del Messaggero culturale giornaliero, quindi anche oggi, Macro, è dedicato a una vicenda, la contessa Bellentani, è una relazione, è una storia di cronaca di molti anni fa, che però continua un po' a affascinare, come a volte sono i fatti di cronaca nera. Nell'elegante scenario di Villa d'Este a Cernobbio, 70 anni fa, si consumò l'omicidio di Carlo Sacchi, che era l'amante di questa donna. E sono stati scritti libri perché, ripeto, a volte la cronaca nera affascina, specie quando si mischia, insomma, a storie d'amore un po' torbide. Vi segnalo, a proposito di tenersi aggiornati su fatti di cronaca che poi a un certo punto spariscono dai giornali, l'Avvenire è l'unico che continua a seguire la vicenda del bambino affetto da una malattia incurabile in Inghilterra. Sapete, il tribunale aveva approvato la decisione dell'ospedale di staccare le macchine che tengono artificialmente in vita questo bambino, i genitori si sono opposti, il bambino è ancora vivo, per così dire. Secondo me il punto principale di questa vicenda, ve lo ricordo, ma lo scrive anche l'articolo dell'Avvenire, è che in realtà questo bambino, per colpa di questa malattia, ha già subito dei danni cerebrali permanenti, quindi anche dovesse sopravvivere lo attende una vita appunto da bambino che ha avuto dei danni permanenti. In ogni caso, ancora una volta i giudici dovranno decidere. Nelle mani del giudice londinese, scrive l'Avvenire, i risultati poco incoraggianti di questo consulto internazionale che c'è stato, perché come molte malattie oggi incurabili, in realtà ci sono anche delle cure sperimentali, quindi molti medici si sono offerti di dire che cosa si fa nei vari paesi per questa malattia, ma siamo ancora a un nulla di fatto, il bambino è sempre attaccato alle macchine. Era però l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia e noi ci sentiamo, per chi vorrà, domani mattina verso le 7:15. Ancora buon sabato da Giulia Crivelli.